Taccuino di viaggio. Un arcipelago composto da tre isole al centro del Mediterraneo. Nei secoli Malta ha ospitato diversi popoli e culture, dai navigatori fenici agli arabi. A meno di 100 km di distanza dalla Sicilia, per 150 anni è stata sotto la dominazione inglese. Oggi Malta è uno stato indipendente dell'Unione Europea, apprezzato per il clima mite tutto l'anno, il mare e la tranquillità. Cose da vedere. Le principali località costiere e le più grandi spiagge sabbiose si trovano nella parte settentrionale di Malta. Fra le più rinomate c'è Golden Bay. La seconda isola più grande dell'arcipelago maltese è Gozo. È ricca di verde, chiese e templi preistorici e nella parte ovest vanta una delle più belle spiagge del Mediterraneo, il Mare Interno, bacino di acqua cristallina e di sabbia di ciottoli protetta da scogliere a picco, con un gigantesco arco scavato naturalmente nella roccia. Non adirarti con me per questo. La mia sposa non può confrontarsi con te. Tu sei immortale e lei invecchierà, morirà. Eppure, anche così, desidero di tornarmene a casa. Rivedere lei e rivedere mio figlio. Allora questa dovrà essere la tua rotta. Tra Levante e Settentrione, dove le Pleiadi sorgono dal mare. Secondo la leggenda, Gozo è l'isola di Calipso, la ninfa che con il suo incantesimo trattenne Ulisse per 7 anni. Comino ha un'estensione di soli 2 km². Non ci sono strade asfaltate né auto. Il suo nome deriva dal cumino, la spezia che cresce in abbondanza sull'isola. Cose da fare. Vela, immersioni, windsurf. A Malta si praticano tutti gli sport acquatici. Grazie al clima mediterraneo si può arrampicare tutto l'anno. Con le sue numerose scuole di lingua, poi, Malta è la seconda destinazione europea scelta per imparare l'inglese dopo Londra. Cose da sapere. Abbiamo importato la fede, la lingua, la cucina, ma tutta questa eredità classica fa parte di un miscuglio che si chiama Mediterraneo, di cui Malta fa parte, perché prima di essere maltesi credo che siamo mediterranei. Scrittore, poeta e critico letterario maltese, Oliver Friggeri insegna letteratura all'Università di Malta. Nella raccolta di racconti Storie per una sera descrive il carattere degli isolani. Sentimentali, facciamo molto rumore, siamo rumorosi, no? Ce ne parliamo tanto. Un po' contraddittori, ma sempre legati alla terra, insomma. Siamo una stazione della Sicilia, senza avere profili. Cioè, dall'Italia e dal sud abbiamo preso caratteristiche psicologiche, mentali, attitudinali, linguistiche. Ma poi siamo riusciti anche a digerire, no? A masticare tutto questo alla nostra formula interna, anteriore, per dire così. Nelle Storie per una sera, cercato di mettere in rilievo caratteri di periferia, cioè la periferia spirituale che possiamo portare dentro di noi, ma anche la periferia geografica dove ci troviamo come cittadini del mondo, insomma. Malta fa parte del mondo, ma secondo il ritmo suo, che è un po' rallento, slow. Essenzialmente Malta è l'Italia e l'Europa dell'altro ieri. Malta oggi ha una sua lingua ufficiale, ma nell'arcipelago si parlano ancora l'inglese e l'italiano. Queste due culture hanno influenzato anche la cucina locale, dalle costolette alla griglia al timballo di maccheroni. Della dominazione britannica resta anche la guida, che sull'isola è a sinistra. Il consiglio. Prima di tutto di vedere i tempi preistorici, no? Che risalgono a circa 7.000 anni fa. L'ipogeo, la cattedrale di San Giovanni, le fortezze. E poi guardare anche il mare, guardare come vive la gente con semplicità e con poca coscienza di quanto sta accadendo nel mondo straniero, no? Praticamente la risorsa più importante che ha questa isola, secondo me, è la gente, che è ancora buona, ospitale. Date da ricordare. Il 29 giugno a Malta si festeggia l'estate, con le corse dei cavalli a Rabat e i canti tradizionali. L'Innaria è una festa tanto sentita che fino a poco tempo fa le spose facevano firmare ai mariti l'obbligo di farle partecipare alle celebrazioni ogni anno. Nei primi 15 giorni di ottobre c'è il Festival delle Città Storiche, La Valletta, le tre città, Medina e Victoria. E sulle note del Ghana, la musica folk tipica maltese, lasciamo l'arcipelago, il Mediterraneo e l'Europa. La prossima settimana si parte per l'India. Un saluto da Maria Chiara Grandis.